Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un tema che è stato molto trascurato durante la campagna elettorale, non se ne è parlato neanche dopo, ma che rimane centrale nello sviluppo del nostro paese e che in fondo ha avuto una plastica dimostrazione della sua drammaticità nel rogo che ha distrutto a Napoli, la città della scienza, e cioè la questione appunto del mezzogiorno. Una questione antica che si tramanda da 150 anni, ma che continua a rappresentare la palla al piede dello sviluppo del nostro paese. E quindi vi segnalo il libro La questione italiana, il nord e il sud dal 1860 a oggi, di Francesco Barbagallo, che è uno storico dell'Università di Napoli, pubblicato dalla Terza, 238 pagine, 19 euro. Barbagallo colloca la questione meridionale all'interno della questione italiana, della storia del nostro paese. Una storia nella quale il meridione ha avuto un ruolo centrale fin dall'origine e infatti, dice Barbagallo, servirebbe un nuovo risorgimento per superare quelle che definisce le attuali polemiche tra leghismo e sudismo, che rappresentano una delle tante espressioni deteriori del degrado italiano. Un superamento che dovrebbe poi favorire lo sviluppo di tutto il paese. Ma su questo sentiamo l'autore. Buongiorno a Francesco Barbagallo. Buongiorno. Francesco Barbagallo, lei scrive nel suo libro che la questione meridionale è nata con l'unificazione dell'Italia più di 150 anni fa. Come mai questa questione in 150 anni si è protratta così a lungo senza giungere a soluzione? Perché è una questione difficile che non si è mai riusciti ad affrontare nel modo giusto. Come scrivo nel libro, bisogna riflettere sul modo in cui fu costruita l'unità d'Italia. In effetti nessuno si aspettava che l'unità avesse le dimensioni che poi ha assunto, dal nord al sud. Il progetto di Cavour, sostenuto da Napoleone III, puntava a un regno dell'Alta Italia, cioè di ampliare il Piemonte verso la Lombardia e il Veneto. Era questo il progetto che piaceva a Napoleone III, che voleva sostituire l'egemonia della Francia a quella dell'Austria. L'annessione del Mezzogiorno fu dovuta a un processo completamente diverso, la rivoluzione guidata da Garibaldi e voluta dai mazziniani siciliani. E il regno delle due Sicilie crollò soprattutto per la rivoluzione che scoppiò in Sicilia, e vide insieme tutte le classi sociali siciliane, dagli aristocratici ai contadini. Perché? Perché il nemico della Sicilia era Napoli e il re Borbone. Quindi l'unificazione italiana nasce da un'iniziativa liberale sostenuta sul piano internazionale da Napoleone III e da un'iniziativa rivoluzionaria democratica portata avanti da Garibaldi con il consenso sia di Mazzini che di Cattaneo. Quindi è un'unione estremamente complicata e difficile tra due realtà diverse, il settentrione e il sud. E infatti la prima esperienza drammatica fu la rivolta dei contadini, dei clericali, dei borbonici, dei democratici del sud, che diedero vita all'esperienza del brigantaggio, che fu un'esperienza drammatica che segnò non solo la storia del sud al momento dell'annessione, ma anche la forma dell'organizzazione dello Stato italiano, che i liberali come Cavour volevano decentrata alla maniera inglese, e che per evitare la frattura, la rottura dell'unità statale già al momento dell'unità, dove assumere le forme accentrate del giacobinismo e della struttura napoleonica della Francia, con la centralità della figura del prefetto. Quindi è una vicenda, come dire, che ha delle origini molto complesse. Ecco, veniamo un momento ai tempi più recenti. Lei parla in particolare del processo di industrializzazione che dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, fu avviata da lì, e ne parla bene, nel senso che riconosce in questo processo il frutto di una concezione meridionalista, come lei scrive, che era condivisa da diverse parti politiche, quindi ci fu uno slancio propositivo e positivo, almeno nei primi anni dell'interventismo post bellico. Guardi, il problema dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale è quello di riuscire a procedere insieme nella ricostruzione del paese e anche nel promuovere il grande sviluppo economico-sociale del paese, che trasformerà l'Italia da una nazione disfatta dal fascismo e dalla guerra, e quindi dalla sconfitta, nella sesta potenza industriale del mondo. Tutto questo avverrà in un breve lasso di tempo, i 15 anni che vanno dalla fine della guerra al 1961-62, cioè al centenario dell'unità d'Italia. E questo processo di grande spessore storico è compiuto da una classe dirigente formata da esponenti di grande livello che erano usciti dal carcere e dall'esilio al tempo della dittatura fascista e che, pur essendo spaccati per motivi ideologici, politici, culturali, sociali, tra due campi che erano poi i campi della guerra fredda, del mondo bipolare, ebbero, come dire, la lungimiranza e la capacità politica di remare insieme per lo sviluppo dell'Italia. E questo avvenne nel segno del processo di industrializzazione che andò avanti in quegli anni e che trasformò l'Italia in un paese industriale avanzato. Che cosa succede nel Mezzogiorno? Nel Mezzogiorno c'è una grande idea dei tecnocrati dell'IRI, Menichella, Saraceno, Giordano, che si propongono, soprattutto con Pasquale Saraceno, la proposta che era stata di Francesco Saverio Nitti all'inizio, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, di cercare di modificare il modello di sviluppo economico industriale dell'Italia, nel senso di coinvolgere più di quanto non fosse stato possibile alla fine dell'Ottocento, quando inizia questo modello di sviluppo capitalistico italiano verso l'industrializzazione, il Mezzogiorno. Quindi, come dire, una deviazione in senso meridionalistico dello sviluppo economico del Mezzogiorno a partire dall'industrializzazione. E quindi la legge speciale per Napoli, scritta da Nitti su richiesta del primo ministro Giolitti nel 1904, e il tentativo di industrializzazione partito con lo stabilimento dell'Ilva, lo stabilimento siderurgico dell'Ilva di Bagnoli. Saraceno e i tecnocrati dell'IRI, in accordo con Rodolfo Morandi, che era il ministro dell'industria nel 1946 ed era uno storico dell'industria, e in quel tempo aveva, come dire, idee di stampo marxista, leninista, il Partito Socialista di Unità Proletaria, come si chiamerà fino al 1947, poi Partito Socialista Italiano, era strettamente legato sia al Partito Comunista sia all'Unione Sovietica, quindi con connotazioni ideologico-politiche estreme. Ciò nonostante, Morandi e Saraceno, quindi un socialista marxista e un cattolico progressista, si uniscono insieme e fondano la SVIMEZ, l'Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, con un'idea precisa che Saraceno ribadirà in tutti gli anni successivi. Qual è questa idea? L'idea è che nel secondo dopoguerra l'Italia avrà gli aiuti americani che gli consentiranno di procedere oltre nello sviluppo dell'industria, che è sistemata al Mezzogiorno. Ecco, però poi quel modello fallì. Scusi, che è sistemata a settentrione. Certo. Dice Saraceno, se a questo punto il Mezzogiorno non si aggancia allo sviluppo industriale, il divario tra nord e sud, che si è rafforzato tra le due guerre mondiali, diventerà insuperabile e spaccherà il paese definitivamente. Poi però quel modello, lei scrive, fallì, nel senso che quando si avvia la Cassa del Mezzogiorno le pressioni della politica si fanno molto forti. Certo, perché il modello di Saraceno, che era condiviso da Morandi, prevedeva una autonomia, come dire, della proposta economico-politica gestita da tecnocrati avanzati, come era stato per l'IRI di Beneduce e di Menichella del fascismo, Saraceno pensava di poter procedere, Saraceno e Menichella, che poi è l'ideatore della Cassa del Mezzogiorno, intendevano procedere come avevano fatto durante il fascismo, solo che quello che era stato possibile durante il fascismo, dove c'era un dittatore, Mussolini, che aveva dato carta bianca a Beneduce per la fondazione dell'IRI e poi per la legge bancaria ai dirigenti delle banche a partire da Mattioli, nell'Italia democratica non sarà più possibile. E già dalla costruzione dell'ente, che è un ente innovativo qual è la Cassa per il Mezzogiorno, non si riesce a procedere nel senso, come dire, che era stato realizzato negli Stati Uniti di Roosevelt con la Tennessee Valley Authority. Non si crea un ente effettivamente autonomo dalla politica. E diciamo, nel libro sono riprese le posizioni di Francesco Compagna, che allora era un giovane intellettuale meridionale e meridionalista, che denuncerà subito la trasformazione della Cassa del Mezzogiorno da ente che avrebbe dovuto svolgere una funzione autonoma, con dirigenti diciamo particolarmente esperti, in un ente che su cui prestava la politica. Ma il punto fondamentale è che il governo De Gasperi non riesce a realizzare il progetto di Saraceno, che è quello di puntare sull'industrializzazione del Mezzogiorno, e infatti la Cassa del Mezzogiorno per 5 anni non procederà sul terreno dell'industrializzazione, farà un lavoro eccezionale sul piano dell'agricoltura e dell'infrastrutturazione del Mezzogiorno, ma non avvierà, diciamo, quell'industrializzazione che per Saraceno era indispensabile per poter ridurre e poi superare il divario tra nord e sud. Grazie, grazie professore, grazie a Francesco Barbagallo, autore della Questione Italiana. Buona domenica. Grazie a lei. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di matematica e di tecnologia. Agli ingegneri segnalo il libro La storia dell'ingegneria dall'antico Egitto al Novecento di James Kip Finch, che fu un ingegnere e un docente degli Stati Uniti, morto nel 1967. Il libro è pubblicato da Odoia, 414 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Giorgio Raffeno. Quello dell'ingegnere è una figura presente dalle origini della storia. In Egitto c'era il capomastro del re, in Mesopotamia il batu, cioè il costruttore, in Grecia il superartefice, quello che si chiamava l'architecton. Poi fanno la loro comparsa gli ingegneri meccanici, che cominciano per esempio a sviluppare le costruzioni dei mulini, e poi ancora con la rivoluzione industriale nasce una nuova categoria, tante altre nuove categorie di ingegneri. Quella rivoluzione infatti fa nascere una nuova era dell'ingegneria, dice l'autore, una nuova economia, un nuovo tenore di vita. Nascono nuove specializzazioni tecniche come l'ingegnere meccanico, l'ingegnere minerario, l'ingegnere chimico, l'ingegnere elettrotecnico. In questa storia troviamo una parte importante dedicata agli architetti ingegneri italiani del Rinascimento, Lammannati, Brunelleschi, Palladio e naturalmente Leonardo da Vinci, autore quest'ultimo di progetti e intuizioni più che di autentiche realizzazioni, come spiegano queste righe tratte del libro dello studioso americano. Leonardo è stato oggetto di lodi e celebrazioni in tanti libri e memorie, e i suoi affascinanti fogli di appunti con i loro bei disegni sono riprodotti in tante edizioni da essere ormai assurto a figura quasi leggendaria, un superuomo. Quando però si tenta di scoprire l'effettivo contributo di Leonardo all'ingegneria, mancano gli strumenti per una reale valutazione del suo apporto in questo campo. Per molti aspetti, Leonardo fu senz'altro precursore della modernità. Le sue idee sulla meccanica pratica erano avanti rispetto alla sua epoca. I suoi suggerimenti circa il disegno di canalizzazioni e relativi impianti rispecchiano una tendenza chiaramente moderna nel progetto dei piani, ma egli riuscì di gran lunga più produttivo nella concezione che nell'esecuzione. I successi straordinari attribuiti a Leonardo come ingegnere si fondano dunque sui suoi fogli di appunti, che ammontano oggi a 16.000 pagine, ma si ritiene solo una piccola parte della sua intera produzione scritta. Sembra fosse sua intenzione selezionarli, ordinarli ed eliminare i duplicati, ma non lo fece mai. Essi mostrano varie invenzioni originali e altre di origine più antica, ma quasi sempre con perfezionamenti aggiunti da Leonardo. Rispecchiano una mentalità meccanica straordinariamente feconda e inventiva e anticipano molti sviluppi successivi. Se Leonardo fosse vissuto pochi secoli dopo e avesse trovato un socio progressista con attitudine per la produzione e gli affari, un nuovo capitolo avrebbe potuto essere scritto nella storia dell'ingegneria. Vi segnalo poi due libri di matematica. Il primo è scritto da un matematico e filosofo, oltre che giornalista inglese, Alex Bellows, e si intitola Il meraviglioso mondo dei numeri. Più divertente forse il titolo originale, che suonerebbe Le avventure di Alex nei paesi dei numeri. È pubblicato da Einaudi, 580 pagine, 14,50 euro, tradotto da Giuliana Lupi. Il libro parte da una constatazione malinconica per la mia categoria: quanto sia digiuna di matematica la stragrande maggioranza dei giornalisti, ma credono soltanto di loro. Dopo varie avventure, l'autore decide allora di scrivere di matematica, anzi di etnomatematica, e questo forse è l'approccio più originale del libro, cioè lo studio, come scrive lui stesso, del modo di accostarsi alla matematica nelle diverse culture e l'influsso della religione sulla matematica. Naturalmente si parte con il capitolo zero in questo libro, che tratta le premesse allo studio della matematica. Poi si parla di aritmetica, di algebra, di geometria, di statistica, e ogni capitolo di questo libro può essere letto a sé, così che il lettore può soddisfare le proprie curiosità. Il libro è divertente, ironico, riuscitissimo, e in questo libro infatti l'autore rovescia il consueto cliché di considerare la matematica come un argomento noioso che bisogna a tutti i costi rendere interessante per la gente disinteressata. Piuttosto l'autore vuole mostrare quanto possa essere affascinante e legato allo sviluppo dell'uomo proprio per lo sviluppo della matematica. Il suo libro è ricco di illustrazioni che aiutano molto a capire i contenuti presentati in un'ottica planetaria, visto che la matematica, dalla Grecia all'India all'Arabia, è veramente patrimonio di tutti. Un grande matematico contemporaneo, giovanissimo e vincitore del più importante premio per la matematica, è Cédric Villani, francese, che ha scritto Il teorema vivente, la mia più grande avventura matematica, pubblicato da Rizzoli, tradotto da Paolo Bellingeri, 284 pagine, 19 euro. Qui l'autore spiega la scoperta che gli ha appunto valsa la medaglia Fields, la grande onorificenza per gli studiosi di matematica, che ha vinto 3 anni fa. E quindi troviamo nel libro la descrizione del suo percorso intellettuale, i rimandi, i collegamenti per destreggiarsi nell'impresa di dimostrare l'equazione di Boltzmann, che con le sue ricerche matematiche e fisiche scoprì i caratteri dell'entropia e approfondì la seconda legge della termodinamica. Un altro approccio alla matematica troviamo nel libro di Bruno D'Amore e Marta Isabel Fandigno Piniglia, La nonna di Pitagora, l'invenzione matematica spiegata agli increduli, pubblicato da Dedalo, 184 pagine, 15 euro. Qui troviamo 10 storie divertenti, di ciascuna delle quali è protagonista un matematico famoso, da Pitagora e sua nonna appunto a Giuseppe Peano e la sua governante. Per spiegare come sono nate molte scoperte matematiche, troviamo poi al termine del libro una breve presentazione, questa non scherzosa, dei 10 protagonisti. Passiamo a un altro tema che è a cavallo tra la storia e la scienza. Il libro si intitola Cartografie del tempo, una storia della linea del tempo, e ne sono autori Daniel Rosenberg e Anthony Grafton, che sono due storici statunitensi. Il libro è pubblicato da Einaudi, 322 pagine, 70 euro, ed è tradotto da Luca Bianco. In quest'opera, un libro lussuoso con molte belle illustrazioni, troviamo spiegato come si siano evolute le rappresentazioni grafiche del tempo, un tema insolito che risulta anche affascinante visti i risultati che sono poi documentati nelle bellissime illustrazioni del libro. Un tema che è anche relativamente recente, perché, scrivono gli autori, la linea del tempo esiste da meno di 250 anni. Certamente prima c'erano tavole ed elenchi, ma mancavano delle forme visive espressamente destinate a questo scopo, che poi si sono sviluppate lungo i secoli e hanno trovato ospitalità in libri, pubblicazioni e oggetti di tutti i generi. E il tema non declina. La sua importanza infatti rimane molto attuale. Scrivono gli autori che senza dubbio, anzi, la linea del tempo non è mai stata più importante e onnipresente di quanto lo è oggi. Nel campo del web 2.0 cronologico e delle applicazioni open source ciò risulta più evidente che mai. Ma, avvertono i due storici, mentre la nuovissima generazione di linee del tempo promette un'abbondanza di cronologia mai vista in precedenza, non è chiaro se ciò che promette sia esattamente un progresso. E aggiungono i due storici. Sin dall'inizio la sfida del diagramma temporale non era quella di includere una maggiore quantità di dati, ma quella di chiarificare un'immagine della storia, di offrire una formula che fosse intuitiva e mnemonica e che funzionasse bene come strumento di consultazione. Resta da vedere se le versioni della linea del tempo che ci fornirà il web 2.0 saranno all'altezza del compito, una sfida che non riguarda certo soltanto questo tema. Un titolo scientifico per una prova letteraria è Fisica quantistica della vita quotidiana, 101 microromanzi di Pier Giorgio Paterlini, pubblicato da Einaudi, 128 pagine, 13 euro. Questi sono racconti brevi e brevissimi, ordinati in ordine alfabetico, alcuni di poche righe, giocati spesso sull'ambiguità e la sorpresa, nei quali vicende assolutamente quotidiane e banali assumono dimensioni quasi surreali, come questa adrenalina. Udì lo sparo. Era in piena vista. L'istinto si buttò in avanti una frazione di secondo, poi il nulla. Non un suono, niente negli occhi, buio nel cervello. Sul traguardo il cronometro segnò 9.86. Ecco che il richiamo alla fisica quantistica si giustifica col contributo che questa dà allo studio degli universi paralleli, quelli descritti in questi racconti, nei quali la sorpresa dell'ultima riga spiazza e sovverte una lettura, per così dire, normale della realtà. Come conferma quest'ultimo racconto che vi propongo, che si intitola High Tech. È inutile, non prende. Ma come non prende? Qui in alto, niente attorno. Se non prende qui, ti dico che non prende, è un'ora che provo. E se non prende, non prende. Ma come facciamo adesso? Dobbiamo pure avvertire gli altri. E cosa ci posso fare? Poi guarda, se non prende, non prende. Questo fuoco proprio non ne vuole sapere di accendersi. Niente segnali di fumo per questa notte. Però la prossima volta che vai giù in paese a ricaricare, almeno fatti dare della legna asciutta per mani tu. E a questo punto... Il confettino. Un libro di carattere scientifico di Carol Strott, illustrato da Lisa Swerling e Ralph Lazar, si intitola Lo sfrecciante libro dell'astronomia, pubblicato da Editoriale Scienza, 19,90€, 62 pagine, tradotto da Federica Rupeno. Questo è un libro sull'universo, illustrato e spiegato, per capire come sono fatti le stelle, la Terra, i satelliti e come l'uomo si stia attrezzando per visitarlo di qui e di là. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.